Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Buona domenica. E allo. Inizia il caldo, Caldo. Allora, lanciamo subito il nostro GR a quattro zampe. Notizie a quattro zampe. Notizie commentate anche, direi, perché noi che siamo giornalisti, no? No, esatto. Buonasera ai titoli. Allora, io vorrei partire subito con una notizia che a me rende molto fiere, mi fa molto felice. Italy, la grande catena alimentare Italy, mm-hmm. rinuncia al foie gras. Tutti pronti a rinunciare alla vendita di foie gras, però un prodotto purtroppo realizzato con l'allevamento intensivo sia di anatre che di oche. E come sapete sicuramente bene, la pratica prevede la sovralimentazione forzata di questi poveri animali, che è stata definita nociva per il benessere degli animali dal Comitato Scientifico Veterinario dell'Unione Europea. Pensa a te. Questo poi capisci, nella testa della gente deve intervenire un organo così per dire che questi animali soffrono. Sì, cioè, è che... Questo ce lo riporta Simona Milvo, che è dell'ufficio stampa di Italy, come riferisce l'associazione Esseri Animali. Riguardo al foie gras, siamo in esaurimento scorte e abbiamo scelto di bloccare gli ordini. Questo è l'impegno di Italy, che io la trovo bene, un'ottima fantastica cosa. Allora, ringraziamento Italy per aver aderito alla campagna Via dagli scaffali, perché il loro impegno è un importante segnale contro la tortura dell'alimentazione forzata, perché questi animali che sono sottoposti a questo gavage, si chiama, sono alimentati forzatamente con un lungo tubo metallico, pensate, inserito direttamente nello stomaco, che provoca problemi respiratori, vomito, diarrea, ferita alla gola e all'esofago, e molti di questi animali non sopravvivono a questo processo, e pensa che il tasso di mortalità è 10-20 volte più elevato rispetto a quello di animali che sono allevati senza ingozzamento. Purtroppo i top, quelli che hanno inventato questa pratica, sono i francesi, che sono i primi produttori mondiali, pari al 70% del prodotto. La France, questi francesi che ingozza forzatamente le però Italy è la seconda catena che decide di cessare la vendita di foie gras dopo la medesima decisione da parte di Panorama ne abbiamo parlato nel certo. 2012 di COP, e l'associazione Essere Animale richiede adesso che anche altri si aderiscano a questa campagna e si adeguino, quindi, e basta, perché tanto se i nazi ignoranti non ci arrivano, che queste i diversamente intelligenti queste sofferenze sono inaccettabili, e allora ci vuole che altra gente che invece ha un pochino più di sale in zucca ne vieti la vendita o la tolga dai supermercati. Assolutamente sì. E invece tu, cioè, che tempo cosa fa, no, perché tempo fa, ricordiamoci, no, 400 anni fa, quando è stata abolita la schiavitù, è stata fatta una legge, perché altrimenti certo. questi deficienti, questi nazi ignoranti, avrebbero continuato ad avere schiavi. Certo, tanto era legale. Vabbè, detto ciò, Namananza, che ci volevi dire? Che mi volevi leggere? No, allora, a proposito di consigli, notizie, eccetera, eccetera, ecco, io vorrei consigliare ai nostri ascoltatori un libro di John Bradshaw, edito da Burr, da Rizzoli, che si chiama Come diventare il migliore amico del tuo cane. Allora, sai, i libri, soprattutto dall'estero, buoni, sono rari, perché ce ne sono alcuni che fanno veramente schifo. Sì, diciamo schifo, ecco, c'è cioè, tipo, tu devi essere il capobranco, qualsiasi cosa il tuo cane faccia vuol dire che vuole essere dominante, tipo il cane tira il guinzaglio, è dominante, ti salta addosso, è dominante, non sporca casa, è dominante, ma va a quel paese, ecco, non è così. E questo libro invece è fatto molto bene, tra l'altro Breccio è un biologo, è direttore dell'Istituto di antropozoologia dell'Università di Bristol, e insomma si occupa da tanto tempo di animali, e voglio dire, è un libro veramente che bisognerebbe leggere, uno dei pochi bisognerebbe leggere. Allora, lui per esempio dentro leggo quello che lui scrive a proposito dei metodi di addestramento, che te la ridi, Celentano? Sto ridendo con Peter. Bravo Peter. Vediamo quando parte l'embolo. Senti che perché mi state stuzzicando. Sì, esatto. Vai. Ma sono rimasto scioccato dall'approccio degli istruttori più in voga, lui ne cita uno, i quali sembrano considerare il cane come qualcosa che deve essere sempre dominato. Per me semplicemente non aveva senso, dice Bradshaw, lo scopo di tenere un cane come animale domestico è che diventi un amico, non uno schiavo. Esatto. Come poi ho scoperto, questa tendenza deriva dalle idee del colonnello Conrad Most, un ufficiale di polizia e pioniere dell'educazione cinofila, il quale più di 100 anni fa, pensa, cioè 100 anni fa stiamo parlando, più di 100 anni fa aveva stabilito che un uomo può avere il controllo su un cane solo se lo convince della sua superiorità fisica. Da dove deriva questa cosa qua? Dalle conoscenze che all'epoca si avevano sui branchi di lupi, nei quali secondo Appunto, le conoscenze dell'epoca, un esemplare controllava gli altri attraverso la paura. Quindi molti ti dicono: tu devi mettere paura al tuo cane, devi dire che tu sei dominante, il cane fa quello sì, che dice tu. Purtroppo questa... Ma sta roba è vecchia, ma è vecchia, sì. Di 100 anni. È vecchia, ma purtroppo lo sai che questa roba è a volte ancora oggi usata dagli uomini contro le donne? Anche perché poi ci sono famosi femminicidi. Sì, sì, ci sono. Cioè, ci c'è sono questa ve- ma, ma lì purtroppo è quando si. Queste persone che usano questi metodi sono persone fondamentalmente complessate, che hanno un sacco di sensi di inferiorità anche, e anche. Che devono sentirsi sicuri facendo i forti sui più deboli. Senti questa un po' quello che continua a dire lui. La biologia, dice lui, visto che è biologo, nel frattempo era diventata il mio campo, pareva in conflitto con il modo in cui per istinto sentivo dovesse funzionare il rapporto con i cani. E il contrasto si è risolto con suo grande sollievo, no, di Bradshaw, negli ultimi 10 anni. Il branco di lupi da sempre la pietra di paragone per interpretare il comportamento canino è ora considerato un gruppo familiare armonioso, tranne quando l'intervento dell'essere umano lo rende disfunzionale. Certo. Di conseguenza, gli addestratori più moderni, più illuminati, hanno in larga misura abbandonato l'uso della punizione affidandosi ai metodi basati sulla ricompensa, che affondano le radici nella psicologia comparata. Eppure all'interno dei media, per qualche ragione, gli istruttori della vecchia scuola continuano a prevalere. Sospetto che ciò sia dovuto in larga misura al fatto che il loro approccio aggressivo assicuri uno spettacolo molto più eccitante. Questa cosa della ricompensa mi fa venire in mente una frase fantastica di Indro Montanelli quando gli chiesero di un politico: dobbiamo temere i castighi? E lui rispose: no, bisogna temere i regali, perché i regali e le ricompense tappano tante bocche. E con quindi... questa frase vi lasciamo. Chiedimi se sono felice. @radio24.it. Ci sentiamo tra poco. Come si trasforma una buona idea in un progetto di successo? Con l'innovazione, la creatività e la condivisione. Il sabato mattina di Radio 24 diventa la voce del crowdfunding con Crowd Me Up, in collaborazione con Appela e Back to Work 24, una rubrica dedicata alla presentazione delle buone idee per trovare buoni finanziatori. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, tutti i sabati alle 9.30 all'interno di Si Può Fare con Alessio Maurizi su Radio 24. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Signore e signori, è qui con noi Antonella Elia. Ciao. Ma che signora, che ridete così, così a pieno cuore. Subito, subito. Gente allegra ma c'è l'aiuta, si dice, no? Certo, esatto. No, ma cioè, non è, tu già ci aiuti perché comunque di fondo sei una persona allegra, ma io e Rosetta qua ne combiniamo di tutti i colori, quindi figurati. E quindi la risata spreca, diciamo. O ridiamo oppure, non so, ci sprofondiamo perché facciamo gaff, ci dimentichiamo. Un macello, guarda. Disastro, dai, disastro. Che figo, bravo. Grazie, grazie. Senti, a parte mi fa un sacco piacere avere l'occasione di fare una chiacchiera con te, anche se sarà in radio, e poi continueremo anche in privato a sentirci, magari con idee, obiettivi e cose in comune. Con grande piacere, sì. Ma allora io mi ricordo perfettamente, tu sei una persona molto sensibile, attenta. Io mi ricordo quando tu abbracciavi gli alberi, la sensibilità. La natura. Ma veramente? Sì. Lei ha fatto delle cose veramente meravigliose, no? Ma poi si percepisce. No, spieghiamo questa cosa di abbracciare gli alberi, perché io l'ho già sentita, la conosco, ma chi è a casa dice che vuol dire sta roba? Allora, perché abbracciavi gli alberi, Antonella? Allora, innanzitutto perché so che gli alberi mandano energia, per cui mi è stato detto nel corso della vita che se abbracci un albero tu capti la sua energia, per cui io questo facevo, cercavo di prendere l'energia dell'albero. Che che fa parte del mio amore sviscerato per la natura, perché a me piace sentire proprio sul corpo, sulla pelle, tutto. Per cui se vado su una spiaggia amo sentire la sabbia sulla pelle, il sale sulla... Se così sembra un film degli anni 50. No, ma bello però. Ha degli elementi proprio, io li devo toccare con la pelle, perché è come se passassero dentro. E la natura io ce l'ho dentro, profondamente radicata, tremendamente radicata dentro. Quello che sta venendo fuori di interessante con le piante è che si accorgono della nostra interazione con loro. L'ho Per cui, sentito, l'ho letto, sì, per cui, bellissimo. sai, quando tu abbracci un albero, che può sembrare una cosa strana, a parte che ti porta in un certo stato e via dicendo, può darsi pure che lasci anche qualcosa, lasci anche un'impronta, magari. All'albero, mamma mia, Sì, è uno scambio. che figata. Io ho ricreato in casa tipo la foresta amazzonica, la foresta tropicale, quindi mi fa piacere sapere che le mie piante mi Sì, sentono e sì. mi vivono come io vivo loro. Allora pensa che, per esempio, quando tu le sposti da un punto ad un altro, si accorgono che sono state spostate dai Madonna, ma cambi lo di sai che luce. il ficus Benjamin l'ho spostato perché un mio amico è venuto in casa e mi ha spostato tutte le cose per il feng shui o Ah, l'abbiamo feng fatto shui. anche noi, Feng Non so Shui. come si dice. Come si Feng dice? Shui. Feng No, shui? noi almeno lo Boh. chiamiamo Feng La Shui, va. Paola lo chiama Esatto, noi Feng Shui. chiamiamolo così. Oh, mi ha spostato il ficus, ha perso la metà delle foglie, mi ha preso un colpo, credevo morisse. L'ho rispostato e ha smesso E di si è perdere le ripreso. foglie. Un ficus di Ammazza. 15 anni ha. Ma Pensa. fantastico. Incredibile, incredibile. Senti, ma a parte il Sì. tuo amore per le piante, da quello che ho Lei ha capito, tu sei anche una grande amante degli animali anche. cani Oh anche. yes, oh Quanti cani hai yes. avuto? Due pastori tedeschi in due periodi diversi della vita. Adesso non hai neanche più un No, cane? ho sofferto troppo quando ho dovuto far sopprimere il mio ultimo pastore tedesco 9 anni fa. E soffro troppo al ricordo di lui, per cui non riesco ad avere un altro cane. Lo capisco. Eh sì. Patetica, sono. No, no, è un ragionamento che fanno Sono le tante sue persone. foto, hai capito? Non Guarda, riesco a dimenticarlo. è un ragionamento che fanno tante persone ed è legittimo e lo posso capire. Quello che io dico sempre però è mettete su un piatto della bilancia la sofferenza che voi avete provato quando il cane se n'è andato, quella che eventualmente potreste provare in futuro, e la sofferenza invece che quel cane può provare restarsene magari una vita in canile. Ah, perché certo tu parli dell'adozione degli animali Sì. che sono tenuti nei canili, Sì. certo. Certo, Quindi sì, certo. cioè io Vabbè, dico, ma io ho sofferto quando è morto Lucky, il assolutamente. mio cane, tantissimo. Però se prendo un cane dal canile, io, cioè, se metto su due piatti della bilancia la sofferenza di un cane che può rimanere in canile, la mia che posso provare quando quel cane magari se ne andrà un giorno, vince quella del cane del canile, allora l'adotto. Questo è Assolutamente, un ma sai metodo. qual è il fatto? A me mi è rimasto il trauma che l'ho dovuto far sopprimere, Sì. per cui mi ricordo lui che mi è morto, che si è addormentato perché gli In fanno braccio. prima un'iniezione e lo addormentano, e poi ho sentito quando ha avuto la scossa il suo corpo, Sì. ti giuro, mi viene da piangere Madonna. anche solo No, parlandone, guarda, non Antonella, sopporto questo siccome ricordo. purtroppo questa cosa l'ho vissuta anch'io nel 2009, che avevo una barboncina nera, era in condizioni disastrose e all'epoca il consiglio fu: sta soffrendo troppo, falla sopprimere. Ho vissuto anch'io purtroppo questa esperienza qui, che non ripeterò mai più, ma che grazie a Angelo ho scoperto che c'è una famosa terza via, cioè non c'è solo quella di farli vivere soffrendo e per non farli soffrire fargli l'eutanasia, c'è la terza via che media fra le due cose, cioè accompagnarli in modo, che non, in modo naturale, ma anche, dimmi se mi sbaglio, non facendoli soffrire, quindi dandogli delle cose che Sì, non li fa grosso modo è soffrire. questo. Cioè, da un lato abbiamo l'accanimento terapeutico, cioè so che le cure che io presterò a questo cane non serviranno a nulla, però le faccio lo stesso perché sono attaccato all'idea Certo, di tenerlo in vita, non posso fare certo. altrimenti. All'estremo opposto c'è l'eutanasia. Allora, visto che da un lato l'accanimento terapeutico non funziona, lo sopprimo immediatamente perché non voglio soffrire io per primo e via dicendo. Ah, no, La terza certo. via dice, mi occupo di cure palliative, elimino il dolore e vivo questa cosa che è naturale, che è il processo della morte, che Di vissuto come si morte, sì. deve ti regala un sacco di cose. Anche se è assurdo, no? Però ne abbiamo parlato, chi ci sta ascoltando lo può ritrovare nei podcast della nostra puntata. Quando c'è stato a novembre, no? La giornata dei morti, insomma, Sì, c'è il questa primo cosa qua. novembre abbiamo fatto tutta la Abbiamo puntata sulla intervistato morte. Stefano Cattinelli, Battiato, abbiamo Guido intervistato. Alberto Bormolini. Esatto, quindi Stefano Cattinelli in particolar modo ci parlava proprio di questa terza via. È Ma stata una cosa pensa, che c'è molto un libro che si interessante. intitola La terza via, no? No, No? il suo libro si Appunto. chiama Tenerci per zampa fino alla fine. Ah, È ecco. scritto anche Tenerci per zampa, fino alla bellissimo, fino fine. alla Si è poi scritto anche fine. Amici fino in fondo, insomma. Senti, ma invece io volevo Sì. sapere, ma che cosa ti hanno insegnato i tuoi cani, cos'è che hanno, com'era il tuo rapporto con loro, la tua giornata tipo, qual è una cosa che tu dici? Intanto il cane è la famiglia, per cui non senti la solitudine, non soffri, non sei mai solo, hai una presenza calda, morbida, che puoi abbracciare, baciare, il pelo del cane è meraviglioso. E poi no, è bellissimo. Io ovviamente baciavo il mio cagnone sul naso, sulla bocca. Anche noi, anche noi. Che chi non ama gli animali, i cani, dice ma che schifo, invece in mezzo ai labbroni. No, guarda, è bellissimo il contatto col pelo dell'animale. Tu facevi dormire sul letto? No, il mio cane era timidissimo, dormiva in cucina. Io parlo del mio secondo, è pastore tedesco. Sì. E quando mi svegliavo la mattina gli dicevo che si emozionava talmente che si faceva la pipì addosso. No, poverino, magari non, si spaventava. Ma di un pensa rispetto. Che no, quando eravamo in tournée teatrale, perché il mio era un cane da tournée, uh-huh, dormiva sempre in bagno nelle stanze in albergo, non osava dormire con me nella stanza, per cui dormiva nell'altra stanza, nel bagno. No, era fantastico, era timido, era, non lo so come mi viveva. Come si chiamava? Puck. Questa cosa del ma aspetta, intendi Book come il no, intendo, con la P, lo chiamo Puck, in realtà sarebbe Puck, il folletto Puck. Di sogno di una notte di mezzanotte. Ma certo, perché da cucciolo aveva le orecchie incerottate che non gli si drizzavano e quindi sembrava un folletto. Okay. No, allora questa cosa che hai detto del risveglio, no? Vado da lui, di cosa che gli dicevi? E lo chiamavo, dicevo vedi. E allora questa cosa qua, e lui si emozionava talmente che si faceva la pipì addosso. No, sai quando noi... cioè, non un lago, però intanto io dicevo cretino, ma che fai, ma sei scemo. E quello ancora di più si faceva ancora la pipì, ancora di più si faceva più addosso. Esatto. Un rito pazzesco era il risveglio. No, mi aggancio poi il mio cane dormiva, scusa, no prego vai. I ricordi, il mio cane dormiva con me fino alle 2, perché in tournée teatrale vai a letto alle 3 di mattina e ti svegli all'una. Lui, tutti dicono mi devo alzare alle 6 per portare a spasso il cane. Io ero allibita, dicevo no, veramente il mio cane, anche l'altro, dormivano con me fino alle 2 del pomeriggio. Ma sì, ma prendono i nostri orari, i nostri ritmi. Sì, fantastici i miei cani da tournée. Ma dicevo, questo rituale del mattino che è molto bello, perché per rendere un cane felice ci sono questi rituali, no? Rituali emozionali, no? Eccetera. Uno di questi fondamentali è il risveglio. Cioè tu al risveglio, dai, al mattino, meglio farlo con dolcezza, no? Piuttosto che un pouk che quello che nascosto. Io lo traumatizzavo, perché lo no, vabbè, magari adesso poi lui si emozionava così. Però effettivamente andare dal cane e dire buongiorno, che è una cosa che io e Rosetta facciamo tutte le mattine, no? Buongiorno, loro cominciano a scodinzolare, poi si risvegliano e si stiracchiano, si fanno tutte le loro cose. Sì, perché tu devi sapere che noi, i nostri dormono sui letti, sopra, dai, sotto. Dai, veramente. Sì. Pensa che Angelo ha scritto un articolo, perché quando sanno che Angelo ha una scuola che forma educatori cinofili, gli dicono, appena lo vedo, dicono, senti, io lo so che sbaglio, ma faccio stare il mio cane sul divano o sul letto. E lui li guarda e dice, dai, ma perché è sbagliato? Se a te va... All'ennesima dichiarazione di questo tipo ho detto, domani scrivo un articolo che è praticamente il più letto del mio blog alla fine. Dai, ma pensa. Ora, il mio fidanzato... Ah no, è finito, ho finito il tempo. No, vai. Il mio fidanzato sostiene che tenere i cani in casa, anche un altro dei motivi per cui non ho un cane. Pensavo che non ho un fidanzato. No, il fidanzato c'è. Che i cani in casa soffrono e che quindi bisogna avere un cane solo se si ha lo spazio per tenerlo, il giardino, le cose. Hai prestato un assist qui a Vaira, che adesso te lo spiega lui ben com'è. Allora, però, facciamo una cosa: facciamo un attimo una pausa, Antonella, così poi ti spiega questa cosa. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Il 19 giugno, dalle 23, non perdere lo speciale ballottaggi delle elezioni amministrative 2016, con le voci dei protagonisti e gli approfondimenti dei nostri inviati, per seguire in tempo reale l'andamento degli scrutini. E lunedì 20 giugno, appuntamento nei giornali radio per l'aggiornamento in diretta dei risultati. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Eccoci ancora, siamo in compagnia di Antonella D'Elia. Antonella Elia. Antonella, allora, cioè, ti ha fatto una domanda precisa che dice che il fidanzato ha detto che i cani devono stare nell'appartamento. Io prenderei pure il cane. Dicevi meglio poi con un fidanzato, perché poi con i tuoi ritmi non riusciresti. Infatti, invece così ho un compagno che mi aiuta a curarlo, insomma, a curirlo. Infatti, è solo che lui dice che siccome vivete in appartamento, il cane non sta bene, giusto? Esatto, più o meno sono esatto. Cioè, appartamento, a parte che c'ho pure un piccolo giardino, però lui dice ci vuole spazio, il cane deve essere libero, il cane deve correre dietro le pecore, questa è la sua idea. Ecco. Non può stare. Dipende se è un cane da pastore. E se è un carlino, tra l'altro. Gli hai chiesto se prendi un carlino? No, beh, io parlo di pastore tedesco perché per me il ricordo dei miei cani, io vivrò sempre con la voglia di, sai, di riavere, sì, i miei cani, quindi parlo di cani grandi. Questo va per un altro capitolo ancora. Comunque, parlando di questa cosa del cane che ha bisogno di spazio, posso dire non è vero. Cioè, i cani, anche io, un cane grande. Ma soprattutto, cioè, nel senso, se io mi prendo un mastino, il mastino ha bisogno di meno movimento di un pincher, per esempio. Vabbè, il mastino sì, ma un pastore tedesco? Un pastore tedesco ha bisogno anche lui di uscire. Allora, che cosa è importante per un cane? Il cane è un lupo fatto cane grazie alla vita attorno ai villaggi. Cioè, la prima cosa di cui un cane ha bisogno è la vicinanza con l'essere umano. Un cane messo in 15.000 metri quadrati di terreno con tutto lo spazio e lontano da noi, cioè che viva in giardino da solo, è un cane triste. Sì, i cani più felici che io ho visto sono cani che vivono in casa con i loro proprietari e che regolarmente escono a fare passeggiate 2-3 volte al giorno, diciamo, per un totale di 2 ore al giorno. Il cane ha bisogno di cooperazione, di fare le cose con noi, eccetera, eccetera. Se io gli do lo spazio, come si diceva una volta, poi questa è una cultura figlia degli ultimi 100 anni, perché per altri 55.000 anni noi abbiamo convissuto con i cani nei villaggi, in capanne, spostandoci quando eravamo cacciatori raccoglitori. Cani, ci addormentavamo con i cani. Noi, per che far bello, diventare i lupi cani, li abbiamo allattati al seno. Ci sono amore, sì, no, si chiama maternaggio, viene tuttora, sì, praticato, wow, in alcune civiltà, ed è stato uno dei modi in cui abbiamo reso il lupo cane. Gli aborigeni australiani dormono assieme ai dingo per riscaldarsi. Quindi, insomma, questa idea del cane che deve stare in giardino con lo spazio, purtroppo è fasulla. No, naturalmente il cane chiuso in un appartamento che non esce mai è un cane, anche quello è un cane triste. Sì, beh, ma è ovvio, okay, questo, però, cioè, indubbio. Quindi i cani normalmente, quando anche vivono in branchi tra di loro, cosa hanno? Hanno un house range, cioè uno spazio dedicato a mangiare, dormire, farsi le coccole, giocare, eccetera, eccetera, e poi hanno un territorio che è ben più ampio. La stessa cosa viene fatta con noi, con i nostri cani. Abbiamo il territorio di casa, lo spazio di casa, che è quello dove mangiamo, ci coccoliamo, ci puliamo, giochiamo, eccetera, eccetera. Poi c'è quello invece del territorio, che è più ampio, dove andiamo a fare le passeggiate, esploriamo, giochiamo, anche lì cooperiamo assieme. Questo è quello di cui ha bisogno un cane. Ecco, quindi così a casa non fatevi spaventare dal fatto che avete poco spazio. Quello che ci vuole è attenzione, cura e tempo. Sono conquistata dalle tue parole. No, guarda, Antonella, hai molto, come si dice, hai molto, secondo me, in comune Angelo, perché poi, vabbè, è la sua professione, ha studiato, ha letto tanto, ma tu, per quel poco che ti ho conosciuto io anche attraverso i tuoi lavori, attraverso la televisione, secondo me abbracci molto delle cose che insegna Angelo. Infatti mi fa... Ah, dai, ci sentiamo che parliamo di buddismo al telefono. Va bene, ok. Angelo, nome, nomen, come si suol dire. Sì, speriamo. Sì, anche un diavoletto quando vuole. Brava, bene. Me ne vanto anche. Brava. Doppia personalità qui. Senti, dici una cosa, cosa stai facendo tu adesso di lavoro? Quali sono i tuoi progetti? Allora, io inizierò a settembre un'altra tournée con Maurizio Micheli, Benedicta Boccoli. Ma dai! E Nini Salerno, il weekend più brutto della mia vita, sì. Beh, fantastico. Quindi iniziamo le prove a settembre e poi in tournée fino a marzo. Bene, bene, fantastico. Allora, mi ha fatto piacere fare anche questa chiacchiera con te. Molto. Chiamaci grazie, quando Antonella. Vuoi. Buona vita e a presto. Anche a voi, buona vita, un bacione. Ciao, grazie Antonella. Ciao. Vedi, Antonella è lì, amante degli animali, allegra, bellissimo. Sì, ma poi lei era, lo vedevi che era proprio uno spirito libero, la natura, la meditazione, la solitudine. Allora, Celentano, la blocco, abbiamo in linea una persona che stima molto perché vuole farle una domanda. Si chiama Barbara Gallicchio, una veterinaria, nostra amica, è il nostro punto di riferimento sulle nostre cose. Ciao Barbara. Ciao. Come allora, stai? Bene, bene, voi? Bene, benissimo. Bene. Stamattina è un po' strana. Oggi abbiamo fatto un sacco di cose. Bene, Rosita non trova adesso la domanda. No, che... no, adesso la trovo. No, adesso la trovo perché un nostro ascoltatore ci ha scritto che ha scoperto che il suo cane c'ha una malattia particolare di cui io in realtà non avevo mai sentito parlare, che è il morbo di Addison. E lui dice una cosa particolare nella mail che ci scrive. Dice che è anche una malattia che prende noi uomini, prende sia noi uomini che i cani. Ah, ma non è che prende, nel senso che non è contagiosa ovviamente tra uomini e cani. No, certo. È una anomalia del funzionamento delle surrenali, è una malattia endocrina e è molto più comune, soprattutto nel cane, il morbo di Cushing, che è esattamente l'opposto. Cioè col morbo di Cushing le surrenali producono troppo cortisolo. E questa è la più comune patologia endocrina del cane anziano. Vedi. Ed è una patologia neoplastica, perché anche se noi non la consideriamo come tale, parte da un adenoma ipofisario o, più di rado, da un tumore proprio delle surrenali. Caspita. L'Addison è esattamente l'opposto, cioè manca il cortisolo ed è spesso su base di predisposizione ereditaria. Ah, ecco. Ma è frequente, è diffusa? No, è molto più diffuso il Cushing. Però anche l'Addison noi lo vediamo e ci sono delle caratteristiche. Prima di tutto è molto più frequente nelle femmine che nei maschi. Naturalmente qualche maschio c'è con l'Addison, però molto più frequente nelle femmine. Poi ci sono delle razze particolarmente predisposte, per esempio il barbone gigante che voi... Quello che hai tu? Ma il mio, sì, è una di quelle razze. Ma il barbone gigante o il barbone in generale? Anche il barbone gigante in particolare. E anche se i barboni comunque possono essere soggetti a questi problemi delle surrenali. Il problema di questa malattia, che colpisce soprattutto le femmine di età media, diciamo tra i 4 e i 7 anni, massimo picco di frequenza, è che mancando il cortisolo, che è l'ormone principale, diciamo, dello stress, cioè l'ormone che viene secreto dalle surrenali in condizioni di stress e serve per compensare la reazione dell'organismo e renderlo adatto alla lotta o alla fuga. Quindi il cortisolo procura l'aumento della gittata cardiaca, della frequenza cardiaca, della circolazione in generale del sangue, della pressione arteriosa, rende l'individuo vigile e lucido, pronto eventualmente a combattere o a fuggire. Purtroppo, mancando il cortisolo, questi soggetti non sono in grado di affrontare il benché minimo stress. E quindi che succede? Tu pensa che può capitare che vanno a fare il bagno e se ne accorgono per la prima volta perché, finita la toilettatura, collassano. C'è uno stress proprio, diciamolo francamente. Cioè uno si accorge che il proprio cane ha questa patologia perché il cane con un semplice bagno si stressa. Per esempio, può capitare al limite anche in una circostanza così, diciamo, benigna, può essere lo stress di andare a fare il bagno dal toilettatore, che bene o male cane non solo magari un po' si stressa, poi deve stare sul tavolo, deve essere asciugato. Certo. E così matura un po' di stress, non riesce a contrastare e magari proprio collassa. Allora si dice che ha una crisi addisoniana. Ah, mamma mia. E la crisi addisoniana può essere mortale. perché con l'Addison si verificano degli squilibri elettrolitici dei minerali del sangue, in particolare sale moltissimo il potassio, che può provocare la bradicardia, cioè il rallentamento del cuore, fino anche all'arresto. Ma quindi, posto che una persona che scopra questo deve stare molto attento alle fonti di stress per il proprio cane, ma c'è una cura poi alla fine? Sì, sì, c'è la cura, è somministrare il cortisolo. Per fortuna possiamo darglielo dall'esterno. Ma è però non è sempre tutto facile, ma è una patologia un po' complicata. Appunto, la cosa secondo me più importante è come si fa a capire se il cane c'ha... La maggior parte dei cani, come ho detto, innanzitutto il segnalamento, no? Cioè la razza, l'età, la femmina matura, insomma di età a giovane, adulto. Ecco. La gran parte dei sintomi è di tipo gastrointestinale, cioè? Per cui molte volte non mangiano, mangiano molto poco o non mangiano. Infatti l'eccesso di cortisolo dà molta fame. Quelli con il Cushing mangiano in continuazione. Vedi. Quelli con l'Addison non mangiano. Non mangiano. Per cui non mangiano, sono deboli, sono bradicardici e non riescono, sono subvitali, ecco, mettiamola così. E appena c'è qualche cosa di un minimo fuori dalla norma, possono andare incontro a un peggioramento che a volte è rapido. Senti, ma il fatto che si possa contrastare questa cosa con il cortisolo mi è chiaro. Non mi è chiaro se poi si può addirittura guarire con una terapia. No. Quello che lo chiederemo. È per quello che si chiama morbo? Mi sbaglio? Sì, non c'è niente da fare. Ma si nasce così? Tutta la vita. No, evolve nel tempo. Cioè, magari a 2 anni non c'è niente, a 4 anni ce l'ha. Il problema è un po' anche... le surrenali sono proprio... diventano proprio ipoplastiche, piccole, atrofiche. Il problema è anche che non si trova in Italia uno dei due tipi di cortisone che servono. Quindi bisogna andarlo a prendere fuori. Adesso sembra che forse tornerà anche in Italia, perché una volta c'era. Poi l'hanno fatto. Ha un nome questa cosa, così facciamo un appello? Quello che si prende in compresso si chiama Florines. Florines, ok. E quello che invece forse sembra che tornerà è il prodotto Depot che si faceva una volta ogni 20 giorni, che era appunto... Speriamo che torni. Sì, è stato annunciato in effetti, perché sennò bisogna sempre andare a San Marino, a Vaticano, all'estero. D'accordo, grazie Barbara Gallicchio delle sue illuminanti delucidazioni, come sempre. Ci spieghi sempre in un modo molto chiaro e utile. Un abbraccione grande. Ciao Barbara, un abbraccio. Ciao, a presto, ciao. Noi ci vediamo tra poco. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Bye bye Europa? Londra decide, dentro o fuori. Il 23 giugno il Regno Unito decide se rimanere nell'Unione Europea o lasciarla dopo 43 anni. Comunque vada, il referendum britannico ha già prodotto un terremoto che scuote il progetto europeo. Fino al 25 giugno, Radio 24 vi racconta come si è arrivati a questo punto, chi rischia di più e cosa accadrà dopo il voto. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Cosa vuoi, Vaira? Cosa vuoi? Cosa vuoi metterci la chiedevo di passarmi la focus da quella parte lì. Ma ti sembra il momento di metterti a leggere il giornale? Vabbè, non avevo niente da fare. Senti, allora riprendiamo la nostra bellissima rubrica, perché domenica scorsa non abbiamo avuto il professor Berrino e quindi abbiamo dedicato lo spazio a tutte le saggezze per vivere bene, in qualità e a lungo, parlando di alimentazione. Sì, tanto che poi di alimentazione si parla, no? Esatto, quindi. Comunque sempre di alimentazione si parla, e adesso lanciamo la nostra sigletta di Piatti e Ciotole. Piatti e Ciotole. Siamo in compagnia di Mara Di Noia. Mara. Ciao a tutti. Sì, perché io vi ricordo che la particolarità di Mara di Noia è quella di mettersi ai fornelli per cucinare per tutta la famiglia, cani compresi, anche gatti quando gradiscono. Gatti compresi. Menù condiviso. Sì, è la bellezza di questa cucina, che si può condividere. Esatto. Allora, che cosa hai pensato cosa per noi oggi? Allora, vi propongo la crema di lenticchie rosse. Uh-huh. Vi occorrono una tazza di lenticchie rosse decorticate, 3 tazze di acqua, uh-huh, il succo di mezzo limone, un pizzico di curcuma e un pizzico di sale marino integrale. Ah, bene. Dovete cuocere semplicemente i legumi con l'acqua fino a che sarà tutta assorbita. Le lenticchie praticamente si disperanno, oppure le potrete ridurre in crema con un frullatore. Ah. Alla fine si può aggiungere il pizzico di sale e il succo di limone. È una ricetta che pare banale, ma in realtà ci serve per tantissime cose, perché le lenticchie rosse decorticate non hanno bisogno di ammollo, cuociono molto velocemente e contengono molte proteine vegetali, che sono un po' così la preoccupazione delle persone che si avvicinano all'alimentazione vegetale anche per i propri animali. Sì. Sono molto magre, quindi non vanno minimamente ad appesantire la nostra dieta. Per il piatto possiamo... aspettate un attimo che ecco. Sì. Per il piatto possiamo aggiungere le spezie, quindi per il piatto umano possiamo aggiungere delle spezie e verrà molto gustosa. Mm-hmm. Con il curry, la cannella, il peperoncino e la curcuma, io la faccio così. Sì. E possiamo accompagnarlo con del pane integrale tostato e uno o più contorni di verdura, questo per diciamo i commensali umani. Okay. Per la nostra ciotola invece non utilizziamo le spezie a meno che i nostri animali domestici non siano già abituati. Sì. E alcuni si abituano anche molto in modo molto tranquillo. Si può servire con un cereale soffiato. Uh-huh. E un contorno di verdura, tutto nella stessa ciotola, cotta o cruda a seconda di quello che avete cucinato e che avete in frigorifero. Uh-huh. Quindi è un piatto base che si può poi comporre a seconda dell'ospite che abbiamo alla nostra tavola. Okay, fantastico. Ho delle domande. Anch'io una, parto io, che sono una donna, che sono una femmina. Parti tu. Allora, lo servi, vabbè, per i cani ovviamente non deve essere bollente, ma per noi umani è meglio mangiarlo tiepido, freddo, caldo? Ma è libero, nel senso che quando si raffredda aumenta la sua consistenza ed è molto adatto come antipasto, quindi su una tavola come antipasto, anche se quando ci si avvicina alla cucina vegetale si perde diciamo la suddivisione in primo, secondo antipasto, perché tutto serve un po' a tutto. Tiepido va benissimo come diciamo piatto in una stagione in cui la temperatura non è calda. Ecco, io invece avevo questa domanda. Prima hai detto no spezie ai cani, loro si possono abituare, ma io spezie intendi anche la curcuma? Allora, io uso un pizzico di curcuma in questa ricetta per colorarla, perché è molto bella da vedere, molto bello da vedere il colore della curcuma. Certo. È una spezia, ho visto, abbiamo constatato che comunque un pizzico in una ricetta così non sposta minimamente neanche il gusto e okay, non crea nessun problema. Quella la metto anche per il cane, no? La curcuma. Sì, quindi. Sì, okay. Sì, la curcuma tra l'altro ha tantissime proprietà, è un antiossidante naturale, uh-huh, quindi combatte questi famosi radicali liberi a cui diciamo soprattutto noi donne siamo molto attente, perché diciamo sono responsabili dell'invecchiamento. Certo. Ecco, magari ai nostri cani interessa di meno questo aspetto, però visto che è una cucina condivisa è bello sapere tante cose. Certo. Ultimamente ho sentito dire, adesso non mi ricordo neanche più chi, che la curcuma va cotta perché non cotta era la domanda potrebbe che far male fare. Ah, te l'ho fregata, vedi? Allora, la curcuma allora ci sono diverse diciamo notizie sulla curcuma. La curcuma va cotta, oppure la curcuma si attiva esclusivamente in presenza del pepe nero. Quindi attiva le sue proprietà in presenza del pepe nero. Cioè, quindi se io la prendo senza pepe nero è come se non mi fa niente? Può essere che le sostanze attive, quindi le sostanze in grado di avere questa azione antiossidante spiccata, debbano essere attivate dal pepe nero. Nella cucina ayurvedica in realtà questo non viene fatto. Mm-hmm. Per cui, punto di domanda, io la utilizzo in questo caso come colorante, perché la lenticchia rossa cotta in acqua poi assume questo colore un po' sbiadito che non è tanto diciamo appetibile neanche per noi, allora la coloriamo un po', ma potremmo usare anche lo zafferano. Benissimo. Con lo stesso scopo. Senti, ma scusami, cuocerla però quanto? Perché per esempio noi mettiamo la curcuma quando facciamo le zuppe miste di legumi e cereali, e cereali, no? Io la metto all'ultimo, gli ultimi 3-4 minuti, ma cotta, sì, cosa ma vuol dire? Cotta? Va benissimo così, 3-4 minuti è in cottura, polvere, per io la metto in polvere. Sì, sì, sì, sì, sì, si utilizza in polvere. Quindi 3-4 minuti è cotta. Si perfettamente. Okay. Io ho da fare un'altra domanda. Vada. Prego, Angelo. Allora, molte persone che sono preoccupate delle proteine, no, in campo umano, quando devono passare ad un'alimentazione vegana o base vegetale, eccetera, eccetera, loro dicono: sai, mi preoccupa questa cosa delle proteine, e poi si tranquillizzano quando scoprono che il legume e il cereale hanno delle proteine, perché il discorso delle proteine lo sintetizzo molto brevemente, quello che, di cui molti sono preoccupati, sono proteine complesse, cioè che abbiano questa complesse, che abbiano questa, questa catena di aminoacidi esatto, che il nostro corpo non è in grado di produrre, bisogna assumere dall'esterno. Quindi le proteine, certo, animali contengono già tutti gli aminoacidi, mentre io posso anche combinare le proteine semplici del cereale con le proteine semplici del legume, durante la mia digestione si combinano questi aminoacidi e formano delle proteine complesse. Ho detto bene? Già tutto. Hai detto tutto perfettamente. Okay. Allora la domanda è: ma succede così anche per il cane? Allora, la scienza ci dice che il cane e gli animali in generale, gli ultimi studi clinici ci dicono che l'importante è il fabbisogno di aminoacidi essenziali. Okay. I cereali, quindi non è tanto il fabbisogno proteico quanto, come, okay, hai detto giustamente tu, quello di aminoacidi essenziali. Gli aminoacidi essenziali sono contenuti in tutto il regno vegetale, mm-hmm, pertanto un'alimentazione a base vegetale e un'alimentazione a base carnea sono sovrapponibili anche per, okay, i nostri animali domestici. L'unico problema che si pone è quello del gatto, che abbiamo detto anche altre volte, è quello della taurina. Ad oggi, uno, non è etico fare degli studi clinici per valutare una dieta priva di taurina, perché... Giusto. Non è una cosa etica, non si, cioè, può fare. Non è accettabile che per il mio gatto di casa, siccome voglio sapere con lui le cose, allora devo andare a sperimentare su un altro gatto in uno stabulato. Il comitato scientifico di qualsiasi studio clinico stroncherebbe questo okay, lavoro, perché non è etico, si dice, non si può fare, a meno che non si trovino in natura delle colonie che per un qualche caso hanno mangiato cibo vegetale da sempre, okay, e stanno bene. Quindi si parte, okay, anche lì dal dato empirico dell'esperienza e si va a valutare lo stato di salute. Okay. A tutt'oggi questo non è dato saperlo. Okay. La taurina è molto presente nelle prede, quindi nei topolini o nelle prede che normalmente i gatti, uh-huh, cacciano. Gli animali che i gatti che vivono in casa non cacciano normalmente, mm-hmm, certo, o cacciano in modo diciamo da regalare le prede a noi per farci piacere ma non le mangiano. Quindi che cosa fa l'industria alimentare? Aggiunge la taurina. Quindi gli alimenti a base industriale, anche carnea, sono tutti addizionati di taurina. Ok. Senti Mara, quindi, come al solito, sì, che dire, non vedo l'ora di andare a preparare un bel piattino fa quest'ora, poi fai venire l'acquolina in bocca. Grazie, ecco, Mara Di Noia, ci grazie, vediamo, ci sentiamo, anzi domenica prossima. Grazie a voi, buona giornata, ciao a tutti. Grazie anche a te. Chiedimi se sono felice, @24.it. Buona domenica. Buona domenica, siamo già alla fine. Sì.